Tony, auguri tanto a te e alla tua famiglia e a tutti. Dopo un po' ti sei ricordato chi era. Ora, altrettanto a te e alla tua consorte. I più utenti mi, li busciaccari, la roba da lavoro, che sacco di lavatrice da voi. Io oggi dormito male. Cosa hai dormito male? Cosa, adesso mi sono sognato anche che mi hanno operato, mi giro la bacia all'altra, bacia ridata, quando non c'è il letto mio io lo dormo. Dai, è andato bene, dai. Ha piovuto stamattina. E allora, bacia ridata, che tempo è ora? Senti, già, ha detto cosa hai, Tagore? Stava piovendo, stava. Forse la prenderà così, cosa ne gioco? Non c'è che piove questi giorni, ma dice che anche che fra un po' abbassa la temperatura, neve in pianura, non so più cosa. No, ma qua non ci arriva, mi sembra a 700 metri, noi siamo a livello del mare sui 120, 130 metri. Potrebbe capitare. Non c'è proprio quel freddo per fare neve, magari un po' di neve avrebbe fatto anche bene, perché ammazza molti parassiti, ha anche preso un bel giro. Ti ha ragione, Iattone. Sei capo. Ma ancora è presto, capo. Si è messo la macchina in parcheggio a pagamento da rimani, che mazzaggio bugata 18,80 euro, mazza di rivaria. Ma te la butta, quattro via. Al mercato sotto. C'è la base di bagaglia. Ma un giovane di bombe chi? Pese piazza. Cosa hai detto, Donu? Che un giro metto l'altra parte. In questa zona deve venire, no? No. Sto cercando di sistemare. Vabbè, tardi hai fatto ieri. Sì. Arrivavo a fatto Baldoria. No, il Capodanno è più bello, dai. Natale non tanto. Un po' di multe, gentile, ma molte volte. Ma dove però? Dove abiti tu? Zona mercato. So capa, no? Capa. Che un po' con la cosa, c'avevo un po' di cartucce a salve. Abbiamo esplose, dai. No, io non aspetto più soldi, non basta. Ho imparato a spendere soldi solo da mangiare, beh, è buono. Che anni fa ne sparavi? Io spendevo anche 200-300.000 lire, quando c'era l'ira. Oggi magari lo faccio là, in Bruxelles di Russia. No, ho imparato solo a mangiare bene e basta. C'è a sparare gli altri. No, io a livello così, pochi euro. Non tanti. A livelli così, me. Capito? Ma prendevo le cipolle che sono buco più ogni casino che magno non ne parliamo, ma cipolle è un bene, e quelli costavano un bene. Io uso quelli tipo candelotti. Io compravo fischioni, quelli che usano l'aeroporto, ma è tutti hai di zone. Che fischio va in alto, esplodo, ma c'è un casino che. Chi ci sono bene? Ti hanno già trattato duro io. Una roba bisogna di burro, me. Invece, guarda, mangiare, bene. E io sono andato piano e trovo, voi con me cuori, che non voglio essere bisogno. Quindi, tanto ti passo poco, se non vuoi mangiare più nulla. Passa un forno, porcetto, insalata di aragosta, bacia. Vedi, diciamo che no, non ci siamo abbuffati. Abbiamo fatto un potiglia una passata di cambi, e bro, perché eravamo in due, cosa cucinava? Il capo è perso la parola 50, la gente ce l'ha lì, anch'io non immagino più che non è mia, se l'ha fatto un po' per lì, per mia figlia, però io ho avuto pensato con la ragazza lì. Poi ci hanno regalato un pandoro al limoncino, abbiamo mangiato quello, e da voi, una bella drinkata. Ma non sei proprio dolce, non abbiamo neanche aperto. Perché mia figlia ha dato un vaso di dolci sardi, ma è garantita di buone. Niente, mi sono mangiato un amaretto e un altro che era tutto, cos'era? Boh, non mi ricordo neanche io. Ma buon bambino. Panettone a dolci. Io in casa ho panettone, pandoro al limoncello, come ho detto tu. No, due panettoni e un panettone a ciò. Non avviene manco una di aprire un panettone, credimi, nulla, è avanzata la mia roba pure avanzata. Perché? Si mangia un bel, si mangia. Germano pure qua ne abbiamo. Però abbiamo, come si dice, non ci siamo abbuffati tanto, ma cantabbi io, pronto? Cazzo, due ampulli di roba mi sono grebato. No, noi siamo andati piano, veramente piano, perché è inutile abbuffarsi, poi non dormi, stai male, no. Mangia più giusto, dai. Ma tu mangi giusto, se no buonanotte. Io sono anche un po' a dieta, e tu me? Ma ci ho approfittato, basta forza, ma con Magnani, vabbè. Un fioretto abbiamo fatto, infatti oggi non mangio basta forza. Un pochino, buon salata. Non riesci a pigiarmi in ciamane, cara. Mi sono occupato a una mina. Beh, se mi dovrei a voi. No, non è che sfumate nulla, niente. Comunque ripeto, siamo andati bene, dopo me così. Abbiamo giocato a carte e siamo stati bene. Quindi è così. Mica mi sono cominciato ancora, a ridere in mezzo, non riuscivo a svegliarmi. Cioè sono andato, ho fatto i bisogni giù e poi mi ci sono coricato attorno. Non riesci a... Allora ho fatto la colazione, allora adesso mi ha tirato su. A che ero tutto grande e sciocchettato quello. Io avevo lussi fascianti, tutte rotte, mi sentivo un poco America, fascia di detti, che lì c'è un feo, no. Si è messo già in terra, altra colazione, poi sono uscito 7:30, mi pare, otto, a pigliare la macchia. Quando ho messo il cartellino, ho visto 18:80, boh, ho messo un ventiero, vai, ma due spiccioli e me ne sono andato. Vabbè. Cioè io quando bevo, vabbè sono a casa, quindi non è che, ma anche fuori, quando mi pongo a trincano, mamma mia, non voglio visto, cara. E manco male che non guidi. Io sono stimmia, non bevo, capito? Ieri notte se volevo un po' buccio di sfumato, ho detto ma che bello, caso non dovevo uscire. Ma quindi no, neanche isso. E vabbè, non fa niente. Ma non c'è altro nessuno in frequenza. Ah, no, sentito no. C'è qualcuno che vuole entrare? Aspetta un attimo, mi sta chiamando Sara, due secondi. Scappa, chi c'è che vuole entrare? Bubu. Un attimo, sono al telefono. Sì, Tony, eccomi. E avanti. E capo, auguri a Castello un po' grigio. C'era anche Tonino poco fa, ma adesso va chiuso, dai. Non so. Se auguri da parte mia. Se auguri. Capo, sembra Ramobile, è vero, un po' grigio. Kappa, dai. Ah, sei con un portatile, sì. No, comunque qua già arrivi, in che zona stai modulando? Kappa, vai naturalmente una stazione più, un po' più forte. KK, a me non stai sempre, sempre fuori. Ok. Comunque qua a media mi arrivi bene, senza problemi. Qua zona Corso Vicco. Ok, dai, ce la risentiamo alle prossimine. Ciao ciao. Se c'è qualcuno, tanto tra poco devo uscire, devo andare da sto parlando da mio padre. Dimmi un po', nessuno c'è oltre a te? No, poco fa è entrato Tonino e ho sentito uno lupo grigio o qualcosa del genere, ma dell'altro no, non ho sentito altro nessuno. Lupo grigio è Nicola, quello che entrava, diciamo, nel periodo di coronavirus l'anno scorso, quest'anno sempre, però verso marzo aveva preso un portatilino e si metteva a parlare lui, però poi doveva mettere l'antenna. Già me l'ha detto già. Pensavo ci fosse qualcuno, ho detto, visto che non si può uscire, sono tutti in casa, invece nessuno, vai, magari stasera. Sì, sicuramente stasera, sicuramente. Adesso vabbè, una giornata bruttina, non è che, a parte che teoricamente non si può uscire, però una giornata bruttina non è che ti permette di dire, se uno dice voglio andare a fare una passeggiata sotto casa a prendere aria, ma non so se sta ancora piovendo. No, piovendo non sta piovendo, però l'uscita è la giornata. Io volevo uscire a andare a prendere un qualcosa, ma non me ne viene gana. No vabbè, io sono a pranzo da mio padre come tutti gli anni, ma di Arosa dove abito io e dove mio padre sono 10 metri di distanza. È in pensione adesso? Lui è in pensione dal 92, ha continuato a lavorare sino, diciamo, sino a 3 anni fa, lavorava, veniva in officina 3-4 anni fa, poi adesso non ci scende neanche più, non è che è anzianotto, babbo, e ha problemi di mobilità con le gambe, fa due passi e li fanno subito male. Troppo ha travagliato, ha lavorato tantissimo. Quanti anni ha? Ne ha 87, ma lui lavorava quando aveva 11 anni, come ha finito l'elementare subito a lavorare, il padre. Suga. Addirittura dal 92 in pensione. Vabbè, chiamiamo la pensione, una cosa ridicola, perché non sei impiegato di banca o qualcosa del genere che ti danno un po' di dinà, gli artigiani non gli danno niente. Già lo so, Guglia, già lo so che non gli danno niente. Comunque, già travagliato che sono, tutti che se lo ricordano, lavorava tantissimo. Diciamo di sì. Dimmi una cosa, le bombole, ma tu le vuoi altre, Antu? Ho capito. Le bombole ne vuoi altre tu? E me le dai, già me le piglio. E adesso devo guardare le altre parti, però mi ha detto mio fratello, tutto le prendi tranne le acipi, così. Perché le acipi cosa c'hanno? Che non le voglio ritirare, allora cosa faccio? In mezzo. Ogni tanto me ne pone una nero cancello, quello c'è per forza, costretto a ritirare. A ritirare. Cosa che fai? Perché poi ti rimangono sul groppone, è un casino. Ah, io pensavo, allora io prima ti ricordi a Milano, su dove c'è il distributore, un po' più su di dove stai tu, le mettevano tutte di lì, infatti ho detto, boh, non ne stanno più ritirando di bombole, invece adesso ultimamente c'è carenza di bombole, di vuoti. Carenza delle nostre, ma quelle là già venne in giro. Cos'è, voi, come si chiama? Perché io se ti porto la bomba non ti devo, cioè se mi dà la bomba non ti devo sempre portare il vuoto, o lo date anche senza vuoto. Qualche una senza vuoto e tutte dei negativi. E lì un po', vabbè, se interessa l'argomento, dai, sto chiedendo informazioni tecniche a te che se le mettere. Ma le bombole c'hanno scadenza? Sì, c'hanno la revisione. Non è che hanno scadenza, devono passare alla revisione ogni tot, ogni 5-6 anni. Quindi è come le nostre, dai, come quelle dell'ossigeno che abbiamo e dell'acetilene in officina, hanno ricollaudate eccetera. No, ma quello volevo dire, perché ce ne sono bombole di quelle che tra l'altro mi pare c'era qualcuna molto vecchia a me, ma vanno bene lo stesso anche se sono vecchie. E se le collaudano loro, cosa mi ha fatto? Le fanno la revisione, le fanno, guarda che sono bombole anche degli anni 60. Addirittura? Sì, vai a controllare la data, perché è stampata. Quello 60, c'è scritto 61, 90, 92, 92. Qui ci sono tutti i bomboli di quegli anni. Certo, pensavo che non durassero così tanto. Adesso guardo se ne ho qualche data, sempre che le vulvi, se non ti danno peso, devo guardare, mi sembra un paio ce ne sono. A me mi fa solo che piacere, basta telefonare. Dopo, guarda che c'ho un po' di bombola, le vuoi, poi si passa con la macchina o se ci si arrangia ci ritirano. E voi cosa ne fate di queste bombole, Artù? Le diamo alla liquida, se sono liquida, se sono fiamma, le diamo fiamma e ci prendiamo le bombole piene. Ah così, no, pensavo che magari tipo ferro vecchio le buttavate. Perché le buttate? Ok, dai, facciamo un attimo di bianco, vediamo se qualcuno nel frattempo vuole entrare. Attenzione 10, compagnia di Roberto di Antunio, avanti che vuole entrare. Buongiorno e buon Natale a tutti, Natalino Alfa 1. Natalino, buongiorno. Natalino, buon Natale anche a te, mio c'è la festa di Natalino, Natale piccolino. E capa, è passato Natalino qua, vi siete sovrammodulati. Avanti Natalino. Ho sentito che mi ha sovrappopolato Roberto. Natalino. E dimmi Roberto. Ma oggi è il tuo compleanno pure? No, l'onomastico solo. Natale piccolino, dai. Auguro di nuovo Anto. E mi Anto, scusa, è Natalino. Avanti Anto. E capa. Ehi, auguri Natalino, anche da parte nostra. Capa. Pure Natalino, non è tanto lontano da me. Oh Roberto. A te dovrebbe arrivare a fondo scala Natalino, sarete in linea d'aria, se più o meno ho capito dove sei, sarete a 600 metri. Sì. Tra me e Natalino che differenza c'è Roberto? No, prova a parlare Natalino. 1, 2, 3. No, sei più forte tu, Antu. E vuol dire che sono più aperto. Tu sei 9,25 Natalino, quasi 9,20. Cappa, non è, guarda, non sto usando potenza, sono basso. Sono quei batti dell'apparecchio. Ma vuol dire che sei più aperto, sono più aperto io a te. Perché infatti io ti sentivo sotto a Natalino. Quindi ho fatto tutto che è vicino a me. Addirittura riesci a sentirmi disturbare a Natalino e sei da attaccare. Passava lui, passava Natalino, Passava Natalino. Aspetta, forse c'è qualcuno che vuole entrare avanti. No, aspetta. Sei gettato il becco. Aspetta un attimo. Basta, un basta. Ma cosa vuoi passare? Cosa vuoi passare? Sei attaccato in area da un chilometro. C'è un brecco comunque, facciamolo venire avanti. Avanti il brecco. Ciao Roberto, ciao Antonio, ciao Natalina, auguri a tutti i circolari. California da questa, buongiorno. Ciao Fra, ma tu vedi che hai fatto break? Io, quando? Adesso. No, negativo. Allora c'è un altro, ben sentito Franco, tanti auguri a te. No, c'è uno che ha fatto break, avanti il break. Mi sembrava Giulio da una voce, va bene. Ti rilancio Franco ad Antonio e poi Natalino. Avanti Antonio per Franco e poi Natalino. Ebbene. Ehi, salutoni Franco. Salutoni. E buon Natale a te, alla tua signora, a tutti. Avanti Natalino. Ciao Fra, auguroni a te e famiglia, cara cara. E beh, come ti arrivo adesso? Robè. Sei quasi 9:30, poco meno di 9:30, sì. Ma sei a casa tua? E allora? Cazzo, sei salito tanto di segnale. Ok, Franco, tu dove sei invece? Io sono in campagna. Natalì segnale per te 5-9 e Roberto 5-9 più 20. Antonio non ho, però stesso. Buono segnale, buono anche la radio. Anche tu fra un bel segnale, 9 più 15, radio 5. Cos'è un K quella? Veglia, un 680, Roberto. No, stai andando alla grande, bella radio, chiara e forte. Vai Anto. K, no, anche qua, no. Mi arrivate abbastanza bene, nessun tipo di problema. K. Tattarino, a lei il mic. Dai, io vi ascolto, dai, no, se no qua succede casotto. Sì, dai, riprendi il tuo altro, puoi fare per Franco. Addirittura Natalino, Ramona. Ehi, a Cevenno, qui vengono a suonare il campanello, non hai capito. Ma la cosa modula, e poi sto arrivando io. Avessi un zona, da cui per sono io un campanello. Franco, e tu che antenna c'hai? Ah, io sto sceso con un'antenna, con una boomerang, vabbè, da 3 metri. Allora sta andando bene, dai. Vabbè, probabilmente ci vediamo le antenne per essere così forti i segnali, ok. Vai tu Natalino. No, Robe, vi ascolto, dai, che sennò qua è un macello. Ehi, ok, lasciamo un attimino il bianco, vediamo se nel frattempo vuole entrare qualcuno, perché poco fa c'è stato un break, mi sembrava Giulio dalla voce. Avanti sul 10 che vuole entrare, se no riprendi tu Anto. E K. Lascia vedere, la numera bomba. Io ce l'ho avuta, quella originale l'EM. Bombava un bel. Vabbè, questa è diverso, però bombava un bel qua. Quella che ho io praticamente la vecchia boomerang, tu. Sì. Allora, che sia vecchia o che sia nuova qua. Io ho provato la nuova, spingeva tantissimo. Ma questa va bene, anche le stazionarie, non è altro. È perfetta in tutto. Vabbè, come radio questo apparecchio, va bene? No, ti sento benissimo, bella chiara, pulita, forte, presente, niente da dire. Ottimo segnale. Ok, dai, anche il tutto è arrivato benissimo qua. Se ce l'avevo aspetta un paio di giorni, ecco, l'ho acceso, fatta scaldare un po', se no. Scappa. No, qua, la verità, io ce l'ho avuta e pompava un bel. Va bene, un attimino che riprendo subito. E via. Robe, ma la butta c'era la boomerang? No, io ho iniziato col portatilino con l'antenna in gomma, poi avevo preso una mini Grand Plain che ce l'ho ancora, quella in vetroresina piccolina, con radialini 75 cm, e poi ho messo la mantova subito. Sì, già al sodo sei passata. Però la mini Grand Plain, cioè la Grand Plain grande è quella che pompa di più, la mini Grand Plain non è che... Sì, assolutamente, figurati, io a Platamona l'avevo messa giù dove stavo io e mi ho fatto l'antenna con la canna da pesca da un quarto d'onda, vi faceva 10 a 0, i segnali che prima non riuscivo a sentire mi arrivavano, non dico fortissimi, ma abbastanza comprensibili, molto meglio quella fatta con la canna da pesca, e ce l'ho ancora, ma la sono sempre conservata di emergenza. E ti volevo dire, Amuruto, non hai sentito ieri gli scoppi ieri notte a tu? A voglia di zocchi, nocchi. Catta giù di tu, sembrava Capodanno, tu bu. Non è durato molto, sarà durato un quarto d'ora, ma catta ogni scoppio, hanno iniziato prima di mezzanotte, adesso un quarto più o meno così, poi un bombardamento, ha detto meno male che siamo in quarantena. Ma è Natale per tutti, ed è Capodanno per tutti, ho venuto dai qua. Ah, ma come sa ce lo concede, un po' di pochi d'artificio, sono tavolo in pizza, hanno fatto pochi d'artificio, anche qua. Io ho raccolto un paio di girate da Rovacone, e via, un paio di caricatori e basta. A che piano abiti tu, Anto? Secondo piano. Ma sopra te non c'è nessuno? No. Ok, a certo studio, anche se adesso ormai il coso dei butti un po' sta terminando il discorso, perché ci sono tutte anche le leggi, ti dicono evitare i rumori, che per gli animali, eccetera, eccetera. A Napoli, hai visto cosa ne gumbineggiano, a Napoli è allucinante. Cioè. Ma anche, dico di loro, esistono regole. Ma tutte cazzate di gente che capisce poco. Se l'animale intende troppo si nasconde, mica ne prende un trauma. Ma cosa cazzo si dizende? Cioè, scusando la... Ma cosa si dizende? dice, ma ti pare che la rimane e piglia un trauma? Si nasconde pure, indomani è tranquillo. Sì, vabbè, però ci sono degli animali che magari non li hanno mai sentiti, magari rimangono un po' così. Cioè io i cani nostri non li voglio dire nulla, perché loro da cuccioletti l'hanno sentito gli scopi, ma parliamo tanti anni fa, quando veniva un di Aburutto. Adesso, però c'è qualche animale che magari non è risente, che magari l'hai avuto, perché c'ha già un anno e non è riuscito a sentirli da cuccioletto. E quelli molti si mettono sotto il letto, se ne vanno in coso. Però in linea di massima l'animale già lo tiene, eh. Ah, cosa? Io ci avevamo i gatti. Ci nascondevamo tutte e tre sotto il letto con gli occhi a palla e poi li passava e va via miragliata. Una di è pacciuta, non me ne sono accorto, ero messo imbriaco. Gatta cominciata a correre a sotto il letto, poi quando ho finito i botti dopo è uscita con gli occhi a palla, erano il gatta tutti canti fuggiti. Poi li passavano, non è tutto questo che dicono traumi, cose, ma va e finirà. Ok, vediamo un attimino di bianco, se nel frattempo c'è qualcuno si è avvicinato al canale 10, avanti che vuole entrare. Voglio fare una prova tu con un'altra radio e mi dici che mi differenza notti tu. Cambio microfono però. Tu va a vedere, cos'è un vintage? E modifica questa modulazione 1, 2, 3, prova canale 10, 27, 0, 75, anche il livello microfonico, guardami, e poi adesso cambio radio. Prova a vedere, no, è buonissima, Guarda questa, cosa ne noti di differenza? Ma quasi niente, c'è poca, poca differenza, c'è. Spinge bene, segnale, niente è cambiato. Squillante forse. Cosa hai detto tu? E l'altra mi sembra leggermente più squillante, ma si equivalgono quasi. Spinge il segnale uguale o cambia? Sì, mi ripeso. Oh, attenzione, canale 10. Ora sì, picchi sono positivi, non sto guardando se c'è qualche problema. Vabbè, ti devo attenuare perché mi arrivi talmente forte che si affondo scala. Adesso attenuato sì. 9-10. Comunque va bene anche questo, sono contento. Dai. Sì. C'è uguale quasi. Guarda bene, te lo do io a segnare, vediamo un po' la differenza. È un passaggio. Guarda questa modulazione, non mi interessa la modulazione, poi quando ho tempo mi faccio tutte le regolazioni. 1, 2, 3, prova radio, canale 10, 27, 0, 7, 5 la frequenza. A me sta arrivando, 9, 20, e radio 5 è buona, ultima. Ma l'altra è diversa, cosa notavi rispetto all'altra? L'altra rimane leggermente più chiara, questa rimane un po' più grossa come modulazione. Ci sono meno acuti, aspetta, provo a salire un po'. So, guarda un po', adesso ho sollevato un po' gli acuti, se distorce. No, a me mi arrivi bene, per me va bene. Io non ho problemi, mi arrivi bene. Tu sei anno, ma vero, ma qua sei a fondo scala. Sì. Ehi, ok, dai. Scusate un attimino che mi ha chiamato mia figlia, un attimino. E beh, a tua, cosa hai combinato ieri di bello? Sì, un po' di baldoria. Hai fatto bene, dai. Ci ho divertito almeno. Sì, e voi? E io campagna. In campagna. Da solo perché non potevo uscire fino alle 10, non sai che era un casino. Ti prendo le opere, quindi tutto lì, era lì. Tutto il lavoro. Tutto a casa, dai. È andata bene. Tu la sei distante in campagna? Non ho capito. Però se sei abiti distante tu dalle case. Ma sarà di altro io sono. Ma tu? Non posso. Lo so che c'è ma c'era di altro. Me l'hai detto mi pare. Ma dico, come sei distante dalle case? Sì. Ma qua non è tanto lontano Matarariascio, da dove Matarariascio, da dove abito io. Infatti mi arrivo bene qua, sicuramente ti arrivo bene anche io lì in quella zona. Sì, non è un problema. Eia. Roberto stava provando. Sono rientrato, questa è la solita, chiuso io, che cambia, il segnale è uguale. Segnale è uguale, però mi piace di più come modulazione questa roba. Vabbè, questo è il suo microfono originale, quello là vuole regolato con un altro tipo di radio. Ok, vai a tu. Oba! Giovanna Roberta. Eia, ok, facciamo un attimino di bianco di nuovo se qualcuno vuole entrare, se no riprendi tu fra. Stavo dicendo, vabbè, ma questo vuol dire l'MC? Eia, è 60, eh. Già 60 è troppo, cambia, qua. L'MC 60 col K non ce n'è, secondo me è il numero uno in assoluto, non ce l'ha. Sì, sicuramente è il microfono che si addice di più e poi anche la radio. Come modulazione i K sono unici, parliamo in 27, anche in altri tipi di bande i radioamatori li stanno di nuovo rivalutando, i vecchi K, quelli 940, 930 e manda laterale sono una bomba. Ma certo, lato parte esterno c'è pure di quella radio tu fra. Allora io ho tutta la linea completa, tutta la linea del 680, cioè MC60, la T250 e la colonnina sempre del 680. Addirittura c'è anche la T250. Sì, sì. Adesso sto usando la T250, qui attaccato. Ora, 1, 2, 3. L'alimentatore cosa stai usando? L'alimentatore sto usando le CT23. Però sento un leggerissimo rumore di alternata, non so se siano le ventole o qualcosa, fra. La ventola sicuramente del 680, ma l'ho pulita ieri. Eia, una domanda, adesso non me lo ricordo, il 680 è uguale come colore al 140? Sì, sì, è preciso. 50 MHz in più. Sì, no, 50 MHz, però non mi ricordavo se il colore è identico, preciso, perché il 940 è diverso come colore dal 440. No, è uguale, il 60 è preciso al 140, lo stesso colore, preciso identico. Ehi, allora io devo cambiare l'altoparlante, perché io ho l'altoparlante del 450 che è nero rispetto a quello del 440 che è grigio. Vabbè, cosa devi fare? Lo cornici e va bene lo stesso. Vabbè, ma se c'è qualcuno che vuol fare scambio, che magari c'è un 450, c'è un altro altoparlante che si può scambiare. Forse ce l'aveva un amico mio di tempo, dai, può chiedere. Ancora, perché lui c'ha anche la T250, però la T250 devo fare uno scambio io, che lo devo dare a una persona, capito? Eia. Ma scambio o di NAV? Cosa? Lo stai vendendo o lo devi scambiare con un'altra merce? No, lo devo scambiare con un'altra cosa, capito? No, non lo vuoi su, deve fare uno scambio con la parecchia di CD. Un bel accordatore, anche 230. Dati, invece non c'è stato il problema degli ingranaggi, i dati colori di lubrificare ogni tanto, no, spesso, però ogni tanto devi controllarlo. Hola Roberto, mi senti? Mi sentite? Sì, ho cambiato radio, io voglio che ti sento, sei quasi, sei 9.25, dovrei salire un po' di più. Con i picchi arrivi 9 più 3. A voi adesso, già va freddo, adesso faccio scaldare un po', vai. No, ma tu hai avuto, basta la posizione, lo vedi, basta l'antenna, rimanendo con lo stesso apparato, se tu te ne vado, vedi prima, cacchio, ti tiravo fuori con le pinze, arrivavi 9, però la radio era un po' così, mentre là ti sei spostato di linea aria, fai un chilometro, hai modificato completamente l'emissione. E stai dicendo, Roberto? A te sto dicendo, chi conta l'antenna? Tu con la radio, se te ne vado, vedi prima, ti tiravo con le pinze a te. Vabbè, già un grido, prima scendi con un roccio di cobro e diventa un po' sbarrato. Ma faccio l'antenna in un'altra gabbisciuria, mi c'ho l'antenna sul tetto, è tutto diverso. Beh, devi segnare quant'è da te adesso. 9 più 15, radio 5, perfetta. Guarda un po'. Sto uscendo praticamente 10, no, 20 modulati qua, modulati 50, là. A voglia, sta andando bene. Sì. Io più o meno quanto te, però un po' di più. Avete parlato in due, l'hai passato di brutto tu, Antu, però sotto un po' ti disturbava. Avanti, fra, cosa hai detto? Adesso posso aumentarlo ancora, c'è lui, ma se va bene così lo lascio così. Sarebbe una futura, se non vuoi più 15, radio 5, cosa vuoi dire? Radio 6, non esiste. No, di segnale, la segnale già va bene, quello che conta la radio. Appunto, stai uscendo perfettamente di radio, il segnale è forte, fa più che bene, niente da dire. K, accordato. Prima che si muovano le stazionarie qua, non c'è nel trucchio. Ecco, se Claudio, sentito la vede. Ma era figo. Ancora no, Roberto. Ma naturalmente ci sono sempre Claudio, Gianni Doppio Room e compagnia cantante, Giulio, non li ho sentiti neanche uno, almeno per farci gli auguri, anche se ce li siamo già fatti via internet, qualcosa con messaggio, non via internet, per messaggio. Vabbè, dai, avanti tu di nuovo, quanto. Qua però vabbè. Dopo entreranno, sicuramente entreranno. Stavo dicendo, adesso io, cioè come sì, io sono come voi, insomma, ho un'antenna sul tetto, anche se sono dentro una via un po' infossata, perché non è che sia alto come via, come cosa, però io, cioè, sono come voi adesso, ho l'antenna sul tetto, capito? Prima non la via, prima c'è con un pezzo di roccia di comoro. Infatti per quello ti sto dicendo, che conta l'antenna? Tu puoi avere un bel potente, ma se l'antenna non irradia non va da nessuna parte. Ok, di nuovo Franco a te il mic. Io volevo chiedere, Roberto, una cortesia. Io dovrei verniciare il cofano della mia macchina, della 147, quanto primi più o meno? Bisogna vederlo, Fra, cacchio, perché il cofano non è solo verniciare, bisogna guardarlo bene. Avvicinati, ti faccio il preventivo, già ti tratto bene. Che colore è? Grigio metallizzato, praticamente se il cofano è nuovo, mi è saltato un po' di trasparente dal centro. Quello è dovuto da lavaggi, quando usano quei liquidi per lavare le macchine, quelli aggrediscono e fanno danno. Così i fari, devi vedere i fari quanti ne stiamo facendo, tutti si ingialliscono, dovuti a quelle schiume che metti, quelli spruzzini, quelli shampoo che non vale nulla, puliscono un bel, però ti rovinano la verniciatura. No, i fari li avevo già cambiati io, Robè, li ho ordinati da internet e me lo cambio tutti e due, perché erano affatti. Me l'ho portati a pulire dopo di 10 minuti sono tornati come prima. Ma a pulire non serve a niente, noi li riverniciamo, li raschiamo a fondo, li diamo di nuovo trasparente, quello con la plastica e tornano nuovi come li hai comprati. Ho capito, sì. Vabbè, magari mi avvicino qualche un giorno e te lo faccio vedere questa cosa, com'è. Quando vuoi, non c'è problema. Ok, ma tu la patente ce l'hai? Me la sto prendendo. Ma tu, scusa, l'app la guidavi però? No. Sì, la guidavo in deposito, ma no. No. No, me la sto pigliando, me la sto. Ma l'altro tipo che lavora di lì dentro, chi è? Il padrone, Anto? Spende quale stai dicendo tu? Quello più grosso. Abbastanza giovane adesso. Perché io vado con varie persone. Ci sono quelli piccini, chi sono grosso, quello è il padrone uno. E l'altro, gli altri sono quelli che stanno con me, capito? Uno lavorava al rifornitore lì a Santa Maria. Adesso non mi ricordo chi è, perché quello dovremmo mettere, sì, già glielo dico ad Antonio, che mi mancavano, mi pare, 10 euro, che sono andato a prendere, come ti avevo in tasca, quando ho preso la bombola, quello lì chi è? Forse quello che ti ha detto così, quello è Daniele, lui. Ma non ti preoccupare, tanto già lo so dove c'è l'officina, non ti preoccupare, poi quando passa Antonio, e poi se ti hai preso anche le bombole, e gli è venuto a letto anche dalle bombole. Che cappa, però non so bene chi c'era lì, no, non lo so. Non me lo ricordo, ma il vecchio esiste ancora, ancora vivo? Chi il vecchio? Marongio, cioè da Vittorio stai dicendo? Quello che stava in via Armando Dias, quello più grande, l'anziano. Io non di morto. Infatti era già grandicello quello. Adesso c'è il figlio o nipote, chi è? Signoro, Daniele. Ok, vai frate. Mi sto mangiando una cazzata, vabbè. Sì, a me già poco mi piace, ma però ieri notte non ne ho mangiate, ero troppo pieno, cacchio. Adesso già mangerò qualcosa, io ne mangio a uffa di panettone, preferibilmente senza i canditi, anche se i canditi mi piacciono un bel, però nel panettone mi tolgono troppo il gusto dell'uvetta. Infatti io sto mangiando quello senza canditi, non mi piace quello dei canditi a me, capito? Io i canditi mi piacciono bene i dolci, quelli secchi, quelli sardi, cose così, col coso sopra, però nel panettone secondo me molte volte ne mettono troppi e scombussano il gusto del resto, che predomina quel gusto lì, per cui non rende. Ok, a te che piace il panettone, Antu? Sta mettendo l'accento, Antonio, sicuramente, sta facendo scaldare la pepitazione. Ehi, capito, Roberto, ti stavo dicendo, quel trattamento mi è uscito, mi è capitato, l'ho portato alle cose, alle spazio, a lavare la macchina. E dopo di 3-4 giorni ho cominciato a vedere trasparente tutto col solato. Quando tutti chiedono 7 euro per lavare la macchina, deve essere una cosa che duri massimo 10 minuti, se no non ti conviene più, per cui loro devono usare i prodotti molto veloci, potenti, per farne togliere tutto lo sporco, mica si mettono la lavata con la spugna, ti inumidiscono tutta la macchina di schiuma, dopodiché attaccano il pulivaporo, gli spazzolano e te ne gabbano tutto. Il problema che hanno fatto dei fari che non varano a nulla, prima c'erano gli altri, quelli buoni della Carrello, ti ricordi, in cosa, in vetro, ma che ti duravano una vita, li potevi fare quello che volevi. Avevano inventato un ghisagabro di plastica che non serve, non serve due soldi e non vale due soldi, ecco dov'è il problema. Il problema lo sai cos'è, Antonio? Lo sai perché stanno utilizzando il policarbonato, volgarmente detto plastica? Il policarbonato? Lo stanno utilizzando per questione di sicurezza dei pedoni, perché quando utilizzavano il vetro, il cristallo, si facevano dei tagli sulle gambe quando mettevano e morivano dissanguati e cose del genere, per cui adesso la legge, da, non so se sia dal 90 in poi, anche se poi le macchine, parliamo di nuova costruzione, non parliamo di produzione, perché sino al 2000 c'erano delle macchine che c'erano ancora i fari in vetro, per dire la macchina mia del 2001, però parliamo di progetti del pare dal 90, 97, 98, non mi ricordo quando, la legge dice che tutte le macchine devono avere i fari in policarbonato per questione di sicurezza dei pedoni. Però erano più buone, per cui là se non ti sbattevi a nessun posto, cavolo, ti durava una vita. Stavo dicendo, vabbè, ma la cosa che mi pulisci questi fari qua, che il resto, dove è trasparente, quanto dura, lo fa rischio. Certo. Che? Sì. Ah, la ruggine è mancata. Ma chi è, Roberto? Ah, no, non sta rispondendo. Buongiorno, buongiorno. Sì, buongiorno Claudio, buon Natale. Buongiorno, buongiorno, buon Natale a tutti. Grazie. Buon Natale anche a te e a tutta la famiglia. Sta arrivando bene qua, Claudio. Ci sono una polarizzazione orizzontale con l'altro 140 fra. Questo è quello che ti ho detto, ho capito. Però sono col dipolo, non sono con l'antenna grande. Ma lasciate a loro 20 qua in campagna per arrivare. Una radio fortissima. Bene, sono rientrato io, qui sono andato un attimino, mi ha chiamato mia figlia. Ciao Claudio, tanti auguri, vabbè, ci siamo già fatti, te li rinnovo. Avanti. Buongiorno Robert, buongiorno anche a te. Buongiorno a tutti e tanti auguri a tutti, buona serata. Ma quel dipolo lungo c'hai, quello che usi normale per le altre frequenze qua? Sì, sì, c'è una polarizzazione orizzontale, dipolo 5 fa. 9 più 40 sì qua. Sì, mi arriva bene lo stesso. Sono andato a cambiare antenna, ho acceso l'altra radio là. Già va bene, tutto a posto. Allora, passato bene tutto il Natale, sì, Antonio, ti ho sentito a Digoglio ieri notte, cosa c'avevi? Il morbo ti è venuto. Non è morbo, no. Non è morbo, no, Cla. Ghiso vino a riuccia, come ti si chiama, a ragosta. Ma sono bevuto una bottiglia, quindi ero un po' a voce. Sì, già va bene, già va bene. L'importante è che sia tutto sotto controllo. Com'è, ti vedo, a ragostata. Com'è quella canzone? Ghiso che fanno l'alghero, mi. Ghiso vino, me lo gioco crebato. Sì, va bene. A voglia che va bene. Dopo abbiamo fatto festa dopo. Oh, hai fatto festa? E allora già è giusto, va. Andare. Ma io oggi colodiamo il mirto, ho fatto il primo imbottigliamento del mirto. Ah, alleluia. Alba via. Ah, io c'ho una bottiglia di vino buono che mi ha portato mia figlia dal bar. C'ho un porto il porcetto già pronto, passati al forno, sono già pronte quasi. Oggi si mangia così, ieri pesce, oggi carne, dai, e basta. E poi finito me. Ah, mica lo bevo io il misto, io l'ho fatto per farlo assaggiare, per il gusto di farlo, io non sono bevitore, già lo sai. Però ho voluto fare la prova, ne ho fatto un po', questo è il primo che ho fatto, l'ho imbottigliato e voglio vedere come va. Poi faccio l'altra cosa, il limoncino, devo tirarlo fuori e il coso. E il misto però ho fatto col tornietto, per vedere come viene, col torchietto. Ok, avanti a chi tocca, Franco. Io se bevo il misto subito a mal di testa, mi fa, allucinante. Il vino no, ma il mirto, wow, fatto miscerino, a mal di testa, allucinante, ragazzi. Io che non è d'occhia io, anche se no, Che ce n'ho mezza bottiglia, è la mia, la HBG. Sì, perché dolce fa male, capito? Tuttoria, per quello. Vabbè, un 400, quella grande? No, è 44, è questo. Gappa. Nota la radio di Claudia quanto è forte. Vabbè, io ce l'ho attaccato, muro dopo forse, qua arrivano per più 40. Vanno 9.25 anziché 9.30. Una radio allucinante, è venuta a baciare anche un po' il volume. E la colonia sente proprio ribombare. E questa è quella che ho preso da poco, perché praticamente gli ho dato una sistemata, ma con l'allineata io non sono in grado di fare certe cose. Capito? Però c'è da fare un po' di allineamenti in barra laterale, queste cose così, però per il resto già va bene, non c'è problema. Va benissimo. Vai, Robè. Sì, adesso voglio lasciarvi, le file sono già uscite, devo andare a pranzo fuori da mio padre, già sono vicino, 10 metri di camminata devo fare. Dai, vi rinnovo gli auguri a tutti, ciao Claudio, ciao Franco e ciao Antonio, eventuali qua amici sul canale 10. Io vado via, ci sentiamo se coincide stasera. Ciao, buon proseguo a tutti. Ciao Robè, tantissimi auguri rinnovati a te, famiglia e alle prossime. Vai Antonio. Auguri Robè, tantissimi auguri in famiglia a tutti. Avanti Fra. Ciao Robè, tantissimi auguri in famiglia come desideri. Contraccambiate al 100% anche da parte mia e da parte della mia compagna. Cappa, sì Fra, in definitiva va benissimo. Proprio bene. Qua ti ascolto ancora meglio, forse perché c'è l'antenna fuori, senti ancora meglio. No, vabbè, ho lasciato l'antenna, quella che c'era, questo lo uso con altre bande, ho lasciato il dipolo 10, 15, 20, 40, 80, poi 10 metri non c'è bisogno manco di accordatura perché c'ha una e due di stazionarie, capito? Quindi in 27 risuona benissimo, va bene. Gappa, avanti Anto. Gappa, un pochettino di meno ti dà, però qua nelle mie coordinate qualche dB in meno, però va bene, forse perché è spostato, più magari più verso Franco, verso me un po' di meno, capito? Sì, vabbè, 40 metri d'altezza è Anto, no, perché la polarizzazione orizzontale. Questo dipolo prende quattro facciate, fronte e retro e anche i lati, quindi non c'è bisogno di nessuna polarizzazione, è fatto così. È come una direttiva, capito? È come una direttiva, nella polarizzazione orizzontale prende dietro, avanti e i due lati, i due punti, capito? Cappa, no, però va bene, dai, no. Qualche dB meno della Mantova te lo dà, perché la Mantova proprio spara fortissimo. Ah, va bene, no, non ti ci puoi lamentare. Non so io quanto ti arrivo, però va la grande. Tu sei Santiago, se sei liscio, sei 9. Liscio non sono liscio. Allora sei 9, 9 più 10, sì. Praticamente ti toglie 10 punti. Prego, sì, dai. Più o meno, però già andava, dai. Io ci ho voluto buttare lo spezzone della che c'era passato praticamente dall'articolo 50 all'apparecchio. Perché ogni tanto stava cioè, accordando, c'è di un'osia, controlla e c'è la spezzone ci stava andando a massa sicuramente. Adesso gli ho messo lo spezzone del 213, e come va bene. Lascia perdere Fra, mi ha fatto impazzire l'altro giorno. Ho commutato da una scrivania all'altra. Cazzo, fischi, inneschi, a tutto andare, aiuto, vai in ora, ma ragazzo, era tutto a posto l'altro giorno, ho iniziato a eliminare di nuovo lo spezzone di commutazione, che sono quegli spezzoni vecchi, ti ricordi che avevamo fatto tanti anni fa, ne avevo un sacco dentro il cassetto, cazzo, ho dovuto buttarli tutti via e rifarmi, mettere tutti i PL buoni, che non li volevo mettere per l'interno, perché sono quelli per esterno, proprio per far uscire bene la radio, se no non usciva bene. Io adesso ho la macchinetta per fare i cosi, per fare i PL, capito? Ho il datore adatto e tutti, ho fatto un paio di spettatori, tutti quanti a 2.13 che lo fa. E 10.48 non lo uso più, non serve a niente quel capo, per carità. Non serve. Nulla, io non volevo metterlo, ma sono stato costretto a portare l'antenna grossa con cavo buono, ma soprattutto con PL buoni, proprio perché non se no è un casino, capito? Infatti quello che c'ho nell'antenna io ho fatto la cazzata, quello che c'ho in testa, ci ho buttato il 2-3 luci, perché c'era tutto oscillato qua, capito? Quindi adesso avevo quello stazione del Vittolo e dopo c'è quello stazione lì del 2-12-58, però adesso quella glielo cambio, ci faccio la discesa 2-13 qua, perché vede qua adesso sto utilizzando il 2-12-58, ma non c'ha la resa del 213, perde un bel. È già ovvio che perde un bel, è chiaro che perde un bel, normale, capito? Vabbè, comunque si vedrà avanti a dove prendi. No, io non ho problemi perché sono pochi metri, capito? Quindi non ho quel tipo di problema. 5 metri il cavo, cioè se non va bene così non ho grosse perdite, quindi ho usato proprio i PL, quelli adatti per questo tipo di cavo, capito? Ma non ho grossi problemi perché ho pochi metri. Quando ne avrò, se mi trasferisco a 4, devo fare una lunga più discesa, allora metto 213. Fai bene, gappa, e vabbè, comunque già l'antenna lui è sempre un esperimento totale, cazzo, già lui ti dice. Lo so, allora oggi me l'ho propensato di buoni a Portuguida, ma non ne ho voglia. Forse domani mi metto all'opera, lì rimetto il coso nuovo, come si dice, rifaccio il buco, lì metto il bullone passante e l'altra me l'aggiusto, tutti i segni mi faccio. Oggettivo, vabbè, piano piano, tu, già non c'è problema. Grazie Stevi, piano piano, già va bene lo stesso. Il capa. Adesso già ce l'ho l'antenna. No, di questa, del modello vecchio, di questa sono soddisfattissimo, sono. Non mi dà fastidio di nulla. L'altra invece subito mi aveva fatto spaventare, Andy, mi aveva già dato problemi da subito. Come ha fatto un po' di vento, così si è staccato il pezzo, lui. Io mi già racconto, ora che racconto io. Via, vedi che già andava. Va avanti, fra. Allora, per fare sciato io c'avevo la Ringo, qua, ce l'avevo. Ma è brata Fusaro, cioè Marzia, ma è tu c'è fra, ce la butta, la regalo, te, ma tu due. Praticamente una mi ha fatto pagare 20 euro, che era tutta perduta qua. E quella l'ho regalata. Gli altri pezzi che ci avevo, dell'altra Ringo, tutti i tubi, che erano, la stessa luce della Mato da 5. Siccome io quando avevo smantellato la Mato da 5 dal sud al monte, l'avevo piegato degli elementi centrali che c'era, quindi ho utilizzato gli elementi della Ringo, quelli sottili, ma li ho utilizzati sulla Mato da 5. Adesso io praticamente ho la Mato da 5 con tutto il radiale, nuova. Aspetta il mio tempo, perché ho intenzione di piazzarla qua, però con il 213, non con l'R58. E questa che c'è qua, la bimbera di montarla su al monte. E chi pesci forte al monte, esce forte con quella lì. No, quel modello lì, quella con le fascette, mi ha dato un problema, mi ha dato. Però se la riparo sono sicuro che è a posto poi. Questa che c'aveva mio padre, che è diversa, anche gli attacchi sono a vite, sono. Questa non mi ha, da quando gli ho buscato la cosa, gli ho buscato quella spirale che era appeso, me l'ha dato Marzia, me l'ha regalato. Da quando l'ho piazzata non mi ha mai dato problemi, mai. Perché non costruita diversamente dall'altra, quella è nuova, il modello nuovo della Ringo, non servono a niente, queste vanno bene per città, ma se devi pagare a lunga distanza, non c'hanno resa come antenna. Io sono del parere, a livello l'antenna, guarda, come se la Mato va 1 e Mato va 5 sono il numero 1 in assoluto, per me, per ognuno. La pesta non è buona. Quello è normale. Sono diverse antenne, capito, diverso materiale costruito in modo molto superiore alla Ringo e tutto, diverse cariche, capito, tutto lì, ma è claro, ma io c'ho anche una Gran Place qua, capito, c'è anche la Gran Place qua, ma non è piazzato, no, non mi piace, per la Gran Place, Gran Place lascia quella che c'è. La boom, la fofa. Ma che è, la mini o la grande c'hai? La grande c'ho, quella da 3 metri. E non va bene quella per pianto, fra. Ma c'ero in campagna, fra, io avevo intenzione di metterla su al monte quella lì, capito? Perché è più leggera, però non vorrei che poi fa figurare quell'antenna. Perché la Mumbara anche secondo me fa figurare un bel. Boh, non so se fa figurare. Beh, comunque già va bene. Non penso comunque faccia TV guai, Ma sarebbe, siccome c'ho tutto su, c'ho già le staffe piazzate, è tutto pronto, devo salire e montarla su, capito? La massa da 5 la volevo mettere qua. E allora già va bene, non penso ci sia un problema. Tu cosa stai usando, Anto? Sempre quella, la prima che hai fatto o l'altra? Quella che mi ha dato babbo, la modello vecchio. Va bene, va bene, ottimo per la truppa. Ma la boomera, ti ricordi che l'avevo venduta, la boomera? Poi ho preso il modello vecchio della... Prima ho montato il roccio di Coburu quando sono venuto qua, e non è che, andava, ma poi ho montato la boomerang, l'avevo preso e poi mi avevano portato quell'altra Ringo là e mi aveva dato problemi. Poi babbo mi ha dato questa qua, quella che avevo a Maccaggia, questa me la sono piazzata, non mi ha mai dato problema. Quindi va bene. Lo prendi fra un attimino che arrivo subito, mi sta chiamando Anna. Ma tu stavo dicendo, ma la bombera che c'è tu, qual è quella col frustino nero? Quella che c'avevo io. Sì, quella con lo surf e con il coso centrale da 3 metri normale in alluminio, quella lì c'avevo io. La cosa, praticamente il piano di massa c'è la crusta, una specie di antenna di crusta nera, giusto? Sì, c'aveva il piano di massa nero, è retrorigna, cos'è? No, quella che c'ho io è quella da 3 metri, il modello vecchio proprio della Sirio. Praticamente, no, della Lemme mi pare di sì, non vorrei dire esattamente, però mi sa che è della Lemme. E c'ha praticamente il piano di massa, c'ha lo stilo della cortizia frutta nera, dai. Quello, il piano di massa c'è da così. E sopra lo stilo normale in alluminio. Esatto, io c'ho quella, il modello vecchio, e va benissimo. Chiaramente non gli puoi dare tutti quei batti lì, capito, non è che tiene tutti questi batti. 50 watt, però l'antenna rende bene. Io l'ho attaccato con l'amplificatorino e andava, però l'antenna funzionava. Un amplificatore da 100 watt li puoi mettere, ma non di più, perché se no ti fonde tutto bene. No, alla fine, qualità prezzo, cavolo, pompa. Io ce l'ho qua, io sono convinto se la porto una piazza al monte, questa antenna rende un bel. Sì, esce un bel forci, esce. Non c'è bisogno nemmeno che si convincia. Ma infatti, a parte che è leggera, capito? Quindi ci posso mettere anche un palo telescopico di quelli leggeri, da lungo. La porto su a 4-5 metri, anche 6 metri va più che bene. A voi dalla zona mia, zona alta, va benissimo. E poi il coso, se è possibile, come si dice, lo sub, rivolgilo dove non ci sono gli antenne, capito? Un punto morto. Almeno non hai nessun tipo di TVI. Ma io l'ho appunto la zona mare, capito? Io vedo che l'ho appunto la zona di portatore, vedo lì. E va più che bene. Di solito va puntato sempre lì. Sì, però impostano dove non ci siano antenne che riflettono, capito? Beh, certo. Certo che sì, farò così, infatti. In definitiva, andare. Quanto è cambiare da te a tu? Ah, sì, oltre 9.15, sì. L'unica radio è tremenda, l'ho puntato a 50. Poi se ne andiamo oltre il 100, va. Non sa che tu anda, ma... Sì, anda bene, fra, anda bene. No, va benissimo, non bene, va benissimo. No, va nuovo, guarda, tu non sta bene, tu, io tengo bene le cose. Ah, va qua, se la piazza al monte quella lì, con chi c'ha apparecchio, forse così, con un apparecchio che abbia un po' di batti, non ce l'ha bisogno nemmeno così scendi con chi sa. La Claudia, vedere quando abbiamo fatto la sezione a casa, cosa era? Già lo so, già. Avevamo fatto la sezione a casa, allucinante.